Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Uno, nessuno e 100.000. Vado ad ascoltare l'Italia profonda. La la la la la. La la la la la la. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci, 9 minuti. Intanto subito una notizia. Il buon Leonardo Manera ha visto 4 gocce d'acqua. No, devo dire, Milano è un inferno questa mattina. Portare i bambini a scuola, come ho detto nella chat, mi varrà il titolo di, non so, papà eroe dell'anno oggi, con pozzanghere di 5-7 centimetri. Ho preso anche una, sapete, una di quelle pozzangherate, aprendo la portiera, whoosh, quando passa la macchina, e c'ho inzaccherata dalla caviglia e le calze tutte bagnate d'acqua. Bene, vabbè, comunque non importa questo. Comunque la notizia è che il buon Leonardo Manera ha visto queste 4 gocce d'acqua e ha detto: oggi faccio da casa, Vestagliona, ti aspettiamo alle 9.30 più o meno, insieme all'Alpino, qui in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo pronti anche noi oggi, parleremo del subito dopo. Cross, sì? Per Ibrahimovic che vola! Chi poteva segnare il primo gol del Milan in stagione se non quel mostro? Però, di Zlatan Ibrahimovic, 1-0. Però. È di qualche anno fa, no? Ibrahimovic? Ah no, è di ieri. Ah, il grande Ibra, l'eterno Ibra. Va bene, va bene. Ne hanno fatti due ieri Ibra, vabbè. Così lo segnalo per la cronaca, ma noi stiamo schisci, come si dice a Milano, stiamo bassi, abbiamo vinto il primo preliminare di Europa League, abbiamo vinto la prima di campionato, tranquilli, avanti, parliamo d'altro, parliamo di referendum, parliamo di elezioni fino alle 9.30, con voi se volete chiamarci all'800 24 00 24 o 349 238 6666, mi scrive un ascoltatore: oggi non c'è scuola, i miei figli sono andati a scuola, visto che non vanno alle scuole pubbliche, oggi non c'è scuola, no, non per tutti, comunque vai Alpino, vai. I will not be easy and it will not be easy. Allora, signori, io, come detto, fino alle 9:30 parliamo del dopo elezioni, è innegabile. C'è da dire, faccio una piccola premessa, quasi anche una piccola provocazione, se volete. È abbastanza incredibile. Sapete che dopo le elezioni è abbiamo vinto tutti. Questo è un gran classico. Abbiamo vinto tutti è la parola d'ordine, tutti che hanno vinto. Aver sentito poco fa anche da Simone Spezia, con tutto rispetto, ma Ettore Rosato, responsabile di Italia Viva, esordire dicendo: ma no, abbiamo vinto in Toscana, abbiamo vinto in Campania, sì, il candidato che appoggiavano, abbiamo fatto grandi sforzi, abbiamo vinto e andiamo bene in Valle d'Aosta. Ecco, se anche da Italia Viva dicono abbiamo vinto, ci vorrebbe quasi uno dei tanti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un DPCM, ne abbiamo visti tanti in questi mesi, per abolire le interviste ai politici subito dopo le elezioni. Sembra quasi, è una provocazione ovviamente, però è incredibile. Hanno vinto tutti, come sempre quando ci sono le elezioni. Vediamo invece però di analizzare qualcosa del voto, lo facciamo grazie alla presenza di uno che è stato direttore qui al Sole 24 Ore, direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista del Corriere della Sera, che ringrazio molto, Ferruccio De Bortoli, grazie di essere qui in diretta. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho fatto una provocazione di abolire le interviste ai politici, non sia mai, per solo il giorno dopo il voto, qualche minuto dopo il voto. No, guarda. anche perché ieri ascoltavo una dichiarazione che mi ha molto sorpreso di Crimi, che ovviamente ha commentato soltanto il voto referendario, non il voto delle regionali, e poi a un certo momento ha fatto tutto un discorso sui mezzi di informazione, che non devono avere interessi privati, quindi immagino che lui pensi di statalizzarli tutti, insomma, no? Ma in modo che la politica, ecco, quindi insomma non ipotizziamo nemmeno per scherzo che ci possa essere una limitazione alla libertà di dichiarazione, anche quando ci troviamo di fronte alle dichiarazioni dopo voto nelle quali, ma storicamente, tutti hanno vinto. Allora iniziamo proprio dal referendum, direttore, che così lo smarchiamo, perché lì una cosa che a me ha colpito, io per la cronaca adesso lo posso dire, ho votato sì, ma vabbè, non conta, però quello che mi ha colpito sono le critiche a dire ha vinto la pancia, ha vinto l'anticasta, non so, anche oggi l'ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, proprio al Corriere della Sera, dice ma insomma basta, non succederà nulla di tragico, non è vero che questo taglio di parlamentari senza riforma elettorale che andrà fatta sarà un disastro per la democrazia. No, questo non dobbiamo assolutamente dirlo, nel senso che anche tra coloro che magari hanno votato no c'erano posizioni favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari. Penso che coloro che hanno votato no abbiano mandato un messaggio dicendo non credo che siano 7 milioni di persone che vorrebbero un Parlamento pletorico, sono forse 7 milioni di persone che hanno detto vabbè, insomma, però ci devono essere anche dei cambiamenti che riguardano le funzioni, non soltanto il numero dei componenti delle Camere. Ieri Zingaretti ha detto adesso si apre una stagione di riforme e speriamo che questa stagione di riforme, tra l'altro Zingaretti si è trovato nella curiosa condizione di dire ha vinto il sì, che noi abbiamo appoggiato, poi contro la legge hanno votato tre volte contro, no? Perché poi bisogna capire che cosa è successo anche prima, tra l'altro pare la metà o forse di più degli elettori del PD abbia votato no, per cui insomma in qualche modo bisogna rispondere al sì e bisogna anche tenere conto che un po' di no esprime forse anche la preoccupazione che non ci si limiti ad un taglio così brutale, ma che si vada avanti nelle riforme. Allora, siccome si è parlato moltissimo e giustamente di rappresentatività, forse con qualche eccessiva preoccupazione di quelli che dicevano ma se c'è un numero inferiore di parlamentari allora alcune zone d'Italia non sono rappresentate, allora io spero che quando si discuterà della nuova legge elettorale si eviti il fenomeno dei nominati, cioè che i nostri rappresentanti siano scelti solo ed unicamente dalle segreterie dei partiti. Che quello è il problema della rappresentatività, che siano tre o due i senatori della Basilicata, faccio un esempio, l'importante è che la gente li possa conoscere, se sono tre o due ma sono nominati... Non c'è questa grande differenza. Facciamo sentire Di Maio su questo, la vittoria di tutti gli italiani, perché ci introduce al tema 5 Stelle. La maggioranza del popolo italiano ha votato sì al taglio dei parlamentari e questa è una vittoria di tutti, di tutto il paese, di tutti gli italiani che vogliono cambiare e che non hanno mai smesso di crederci. Ecco, De Bortoli, le chiedo questo, è l'unica vittoria che il Movimento 5 Stelle ieri si può appuntare al petto, quella a cui aggrapparsi, perché per il resto, guardando le regionali, no? Bah, certamente è l'unica vittoria, ma è una vittoria importante, questo dobbiamo dirlo, è una vittoria quasi identitaria dei 5 Stelle, si può non essere d'accordo, ma non si può negare che quello, diciamo, è stato sempre comunque insomma il principale obiettivo che 5 Stelle aveva accanto al reddito di cittadinanza, sul quale si dovrebbero dire molte cose, ma è chiaro che c'è stata un'enfasi sul risultato referendario, perché di fatto è come se non avessero partecipato alle elezioni regionali, tant'è vero che si sono ben guardati dal commentarle, anzi ascoltavo alcune dichiarazioni che dicono vabbè, ma forse la nostra proiezione territoriale era modesta, non ci siamo impegnati, si coglie dalle parole di Di Maio una critica molto aspra nei confronti di Vito Crimi. Insomma, Fraccaro l'ho ascoltato pochi minuti fa e ha detto: ma insomma, noi dobbiamo ancora radicarci nei territori, ma insomma, il Parlamento sono il primo partito, sì. Quindi se non si sono ancora radicati nei territori, insomma, non possono scoprire adesso. Che forse a queste elezioni regionali, se avessero potuto, non avrebbero partecipato. Mm. Allora, poi c'è il tema appunto di chi ha vinto. Cioè, io farei sentire l'ascoltatore Ferruccio De Borto una dichiarazione interessante del neovincitore, il vincitore della Toscana, Gianni, che sentite cosa ha detto. Gianni. In questi giorni mi si attribuisce l'essere riuscito perché patrino quello, quell'altro, consentitemi, oggi ve lo posso dire col cuore, c'è dentro di me l'energia di sapere che Gianni è Gianni. Cioè Gianni è Gianni, nel senso non ho padrini, e io penso anche a De Luca che nel stravince in Campania e marginalmente ringrazia il Partito Democratico, Emiliano che dice è vero il primo che mi ha chiamato è stato Zingaretti, però si sa non è molto allineato alla linea del partito del PD. Allora, e hanno trionfato con, sembra neanche la campagna ma De Luchistan o lo stesso anche Emiliano, lo stesso Gianni, cioè ma davvero i partiti possono dire, il Partito Democratico in questo caso, abbiamo vinto, ci siamo affermati, oppure De Bortoli, sono tutti candidati che hanno trionfato ma che non sono molto in linea con il partito, anzi molto spesso hanno litigato con gli stessi partiti. Beh, questo è stato un elemento di forza nella loro campagna elettorale, perché ovviamente Gianni doveva liberarsi da una, così, da un padrinaggio di qualsiasi tipo, insomma, e di essere semplicemente visto come il candidato del PD, perché comunque c'è stato, diciamo, la grande prova del centrodestra era quella di poter conquistare la Toscana, prova che è fallita, e quindi a Firenze ci sono andati tutti più volte, Salvini, la Meloni e Tajani, insomma. E lui ha fatto intelligentemente leva sulla toscanità, sull'identità della regione, e quindi quando tu fai leva sull'identità della regione non puoi stressare troppo l'appartenenza ad un partito. Dici Gianni e Gianni, dice io sono, insomma, sono il presidente di tutti e sono gli interpreti di questa resistenza della regione all'invasione degli altri, e quindi mi autonomizzo e faccio un discorso che non è diverso da quello che potrebbe fare un candidato di centrodestra di un'altra regione, insomma. Però qui abbiamo assistito in questa consultazione a un progressivo rendersi autonomo da parte dei presidenti delle regioni, sì. Perché Emiliano ha vinto da solo, dobbiamo dircelo. Questo possiamo avere tutto contro Emiliano, essere populista a modo suo, però certamente la battaglia l'ha vinta tenendo conto che la sua maggioranza si è non divisa, si è frantumata addirittura, insomma. Certo, poi ha fatto tantissime liste, poi il fatto che ci siano liste di ogni tipo, insomma. Poi De Luca ha fatto liste di ogni genere e probabilmente sono stati votati anche molto dal centrodestra. Sì. Dal centrodestra, anche perché in Campania e in Puglia il centrodestra, pur unito, ha ripresentato due perdenti. Cioè Caldoro che ha preso è fitto, ma come? Dopo tanti anni proprio voi che dite, cioè non siete in grado di cambiare la classe dirigente. Sì, questa è una riflessione che devono fare. Ha un po' colpito effettivamente vedere due governatori che in passato hanno governato, poi sono stati battuti, insomma. Eppure sono stati mandati a casa, insomma, tu non puoi cambiare il look di Fitto. È chiaro che erano due minestre riscaldate per denti. Allora, c'è il grande tema della Lega. Io ieri sentivo Salvini a dire, abbiamo 15 regioni contro 5. Salvini che però auspicava, non è che avesse detto vinceremo 7-0, però auspicava questo, lo vogliamo risentire poco prima delle elezioni. Tanto è il fatto che io aspetto la sera del 21 per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in campagna. E se dovessi fare un pronostico, quello che mi pongo come obiettivo è di 7-0. Quindi non si poneva l'obiettivo 7-0. Adesso bisogna capire, De Bortoli, se ponendo un obiettivo del genere va quindi messo nella lista degli sconfitti. Beh, insomma, si sa che era la Toscana il fronte secondo alcuni su cui si giudicava soprattutto la vittoria e la sconfitta della Lega, oppure se uno può dire beh, però abbiamo stravinto in Veneto con Zaia in maniera clamorosa. Come la giudichiamo? Però se tu alzi l'asticella della sfida e poi non raggiungi il risultato, beh, lì hai mancato l'obiettivo. Non puoi poi a un certo momento essere più modesto nelle tue aspettative, no? Anche perché, voglio dire, sono 15 regioni a conduzione di centrodestra ed è esattamente ribaltato rispetto a quello che accadeva 5 anni fa. Quindi da quel punto di vista, certo che, ma sai, Salvini, lo dico da milanese, insomma, ha una tendenza politica qualche volta a fare il ganassa, come si dice a Milano, insomma, cioè a dire, a vantarsi, insomma, un po' troppo, a fare poi, il bullo. E poi a dimenticarsi di quello che ha detto, ma questo succede non solo a lui, succede anche a tanti altri. Sì, sì. Allora, io ho citato all'inizio sentire, come dire, il responsabile di Italia Viva dire abbiamo trionfato, mi ha un po' scosso, ma non ho niente contro Italia Viva, per carità, però qualche giornale titola nella vittoria di tutti l'unica sconfitta è quella di Renzi. In Toscana Italia Viva ha preso il 4,48%. De Bortoli, ti faccio sentire, direttore, una gaffe che ha fatto il ministro Bellanova nell'ultimo comizio in Puglia, in cui doveva invitare a sostenere Ivan Scalfarotto. Ha detto questo. Senti. Allora, noi per questo chiediamo un voto a Michele Emiliano e a Italia Viva, perché non chiediamo un voto per Michele Emiliano, non chiediamo il voto a Emiliano, ma a Ivan Scalfarotto, che era lì a fianco, l'ha presa benissimo, sorridendo, eccetera. Vabbè, lo uso solo come battuta per dire che è una parabola politica un po' strana, davvero, davvero strana, forse più da destinare agli storici a questo punto, agli storici della politica, che agli analisti, se quella di Italia Viva e di Renzi, no? Allora, cerchiamo di guardare quello che può essere un segnale costruttivo. Ci sono stati dei tentativi di mettere insieme delle formazioni di centro, no? Per esempio in campagna è andata abbastanza bene, o perlomeno non è andata male come in altre parti, per cui probabilmente noi abbiamo visto in queste elezioni regionali un processo che probabilmente si incrementerà nei prossimi anni, di cercare di avere al centro formazioni un po' più corpose. E questo però passa attraverso il dialogo, minori personalismi e una maggiore attenzione a quelli che sono i temi, che peraltro sono temi che importanti che Italia Viva ha portato avanti in questi ultimi mesi. Questo sì. Per concludere, non abbiamo detto niente di quello che secondo molti, anche un altro vincitore, anche se silente, cioè Conte. Conte che secondo retroscena dice al Corriere della Sera rimarrò fino al 2023. È davvero rafforzato? Cioè a questo punto la tenuta di governo, almeno nei prossimi mesi, non è in pericolo, De Bortoli? Guarda, le mosse di Conte sullo scacchiere politico mi fanno pensare che la Prima Repubblica non sia finita. Cioè, nel senso che c'è un'astuzia tattica particolare, perché sul tema del referendum Conte è stato silente, lo ha detto soltanto en passant negli ultimi giorni che avrebbe votato sì, ma si è ben guardato dal politicizzare un referendum costituzionale, l'ha lasciato ai 5 Stelle, è andato avanti, del resto lui è il Conte 1, il Conte 2, insomma, sostanzialmente ha governato con tutti, con l'eccezione della Meloni, no? Quindi li tiene e un po' non ha la capacità di, insomma, di sfruttare anche a fini di tenuta del proprio governo e di proprio risultato personale dal punto di vista dei consensi, un po' quelli che sono i contrasti all'interno della sua maggioranza. Quindi è stato, devo dire, da questo punto di vista tatticamente perfetto. Grazie direttore, ci sentiamo presto. Grazie a Ferruccio De Bortolo, editorialista del Corriere della Sera, per questa analisi. Ci ha dato tanti spunti, ha dato tanti spunti a noi, agli ascoltatori. Se volete chiamarci all'800 24 0024, se volete scriverci o mandare audio al 349 238 6666. Non parleremo solo di questo, è una trasmissione, alle 10 ci concentreremo anche sulla cronaca, questo fatto di cronaca terribile di questo padre che ha ucciso il figlio di 11 anni dopo aver e poi ha ucciso anche se stesso. Ma rimaniamo ancora un po' sulla politica in questa prima ora. Io voglio andare in pubblicità facendovi sentire, proprio per far capire come sia poi un voto legato ai governatori, sia De Luca, sia Emiliano, che come ci ha detto De Bortoli di fatto ha vinto da solo, sia Toti in Liguria e anche Zaia ha fatto questa dichiarazione dicendo: il voto dei veneti è per il Veneto. Qualche ascoltatore ci dice ha vinto proprio perché si smarca da Salvini. Adesso non esageriamo, insomma è all'interno della Lega, però è interessante. Zaia dice sempre, io, come dire, c'è anche questa frase, non faccio comizi ma governo e per questo ottengo questi risultati. Sentiamo Zaia dopo la vittoria. Vedo che si fa molta festa per questo risultato, a me dà molta responsabilità, ce l'ho io, la portiamo a casa questa responsabilità, ce l'hanno tutti gli uomini e donne, i ragazzi e ragazze che hanno corso con me, e è una responsabilità grande, una responsabilità che condivido con loro. È un voto dei veneti per il Veneto. È un voto dei veneti per il Veneto. Ecco, è il voto dei veneti per il Veneto. Sarebbe interessante vedere davvero Zaia in una competizione a livello nazionale. Lui ha sempre detto che non è interessato, insomma, a governare se non in Veneto, dove risultati alla mano di fatto. Vince, stravince sempre, anche nelle classifiche viene considerato come uno dei governatori, se non il più apprezzato ogni anno nella classifica del Sole 24 Ore, se non vince al secondo posto. Sarebbe interessante, ma forse insomma, rimarrà sempre lì in Veneto, dove certamente dimostra di vincere in maniera netta. Intanto chiamateci se volete qualche considerazione con l'arrivo virtuale del buon Leonardo Manera. Abbiamo dato il codice dell'app, è arrivato a casa, è all'asciutto, vestaglina, vestagliona, tutto a posto sul divano. Tra poco ci racconterà il tentativo di raggiungere la radio. Ha fatto un tentativo questa mattina e poi ha rinunciato. 1, nessuno, 100 Milan. Michelangelo, ci metti pure tu, però le Marche sono state sempre rosse, parlate pure delle Marche, la Toscana ormai vabbè, però non è che abbiamo fatto granché. Le Marche 51% ha preso Andreoli, 51%, sai che significa? Milan, come fanno a dire il Partito Democratico che ha vinto, che il centrodestra ha 15 regioni su 20, è una roba impossibile. Ciao Milan. Ma adesso le poltrone che tireranno via dal Parlamento si possono usare per fare i banchi monoposto per la scuola? Buongiorno Milan, solo per annunciare che probabilmente anch'io ho vinto, a casa mia stiamo finendo lo spoglio dei voti, se tutto va bene dalla settimana prossima mi spettano i piatti alla sera e le pulizie al sabato. Per cui grande euforia, abbiamo vinto, siamo i più forti, ma non lo so se sono contento di aver vinto. Hanno vinto tutti, tranne Leonardo Manera, che oggi ha perso, nel senso che ha fatto un tentativo, venuto male. Ho fatto un tentativo. Buongiorno. Arrivare in automobile, ho preso la mia automobile, ma era tutto bloccato. Sono stato in coda per qualche minuto e allora ho detto, ma chi me lo fa fare? Rinuncio. Era già tardi per prendere la metropolitana e quindi sono tornato qui al calduccio di casa mia, anche perché in effetti Perché? Perché sobbarcarsi 45 minuti, anzi un'ora oggi di traffico con la pioggia, quando posso rendere ugualmente stando a casa? Mi sembra una soluzione ideale. Concordi con me? Sì, guarda, figurati. Ci mancherebbe. Per me puoi stare a casa fino al 2000. Ho detto, mettiamogli una base triste, ma non c'è nessuna amarezza effettivamente. Togli l'alpino. No, è felice, è vivo, è contento. È andato giù, ha scoperto che c'erano pozzanghere di 7 centimetri e ha detto, ma sai che c'è? Io torno a casa. Rinuncio. E non iniziate con i messaggi, Manera, svegliati prima. No. Lui no, ho fatto un tentativo, ero lì in coda in macchina, ma già all'altezza di via Casoretto era tutto bloccato, sono stato 20 minuti in coda lì. Me lo vedo così, ma. Così, e me lo vedo lì sul volante, ma sai che c'è, torna a casa, va. La scena è questa. Sei riuscito esattamente a identificare la situazione. Comunque, sai, come dicono gli psicologi, non si perde mai, è per quello che tutti hanno vinto. No, mai, tutti gli psicologi vinto. Dicono che non si perde mai, perché se vinci, hai vinto. Se hai perso, impari per vincere successivamente. Quindi sì. Non si perde mai, Questa è la lezione che devi imparare dalle elezioni. È sempre una vittoria. Se vinci, hai vinto. Se hai perso, impari per la prossima volta. Questa è la cosa che dicono tutti gli psicologi. È un po' consolatoria, però. Ma sai che questa cosa, tra l'altro, che tutti hanno vinto, tutti che dicono ho vinto, ci ha fatto venire in mente che così, a meno è arrivato l'alpino in regia, ha detto potremmo lasciare lì in Parlamento un... Avete la faccia come il culo. Un premio Giachetti, così. Tanto adesso ne basteranno meno, visto che c'è stato il taglio dei parlamentari della prossima legislatura, quindi no? Tu ricorderai che l'anno scorso avevo proposto di fondare io un partito che si chiamava Italia Viva per Miracolo e adesso potrebbe essere... E hai vinto? Hai vinto? Non si certo, sa. Tutti vincono. La battuta migliore di un ascoltatore, Zaia, perché ho detto chissà se Zaia si confronterà mai un domani a livello nazionale. Zaia è la Juve della politica, vince in Veneto ma a livello nazionale perderebbe come la Juve quando va in Europa, quando esce dai confini italici. Ma io, non è male. Io penso che avremo modo di verificarlo, perché vedrai che nell'arco di pochi anni Zaia diventerà... Ma secondo me lui sa che, come dire, sarebbe tutta un'altra questione andare a prendere i voti in Puglia, in Abruzzo, in Sicilia, è tutta un'altra partita. Ha ragione l'ascoltatore, cioè nelle Marche, giustamente, il deputato di Fratelli d'Italia Acquaroli ha vinto, da 25 anni c'era il centro-sinistra, quindi sicuramente è un grande successo. Sono smarcati dal centro-sinistra, diciamo, nelle Marche. Va bene, sentiamo Andrea da Siracusa. Buongiorno Andrea, da grande, bellissima, meravigliosa Siracusa. Vai. Grazie, buongiorno. Io volevo invitare chi ha votato no ad essere però coerente. Invitare chi ha votato no ad adottare un parlamentare. Adottare perché ci saranno 345 disponibili la prossima legislatura da adottare, quindi che siano coerenti. Li volevate, sono ormai liberi, aspettano voi la vostra adozione. Quindi adotto un parlamentare per la coerenza di chi ha votato no. Va bene, dai, accogliamo con un sorriso, Andrea, questa proposta. Chi ha votato no e quindi voleva mantenere il numero dei parlamentari attuali, ora dovrebbe adottarli. Caro Leonardo, tu hai votato? Perché ho trovato la mia tessera elettorale e quindi sono andato anch'io a votare. Dov'era? Nel poca frigo gente, sotto la zucchina? Era in fondo delle cravatte, la tengo in fondo delle cravatte. Perché la tieni? Perché le cravatte non le uso mai, quindi per associazione mentale cos'è che non uso quasi mai? Le cravatte e la tessera elettorale, l'uso raramente, quindi ho fatto questa associazione che mi permette di ricordare dov'è. Ma tra le cravatte mi hai detto che mettevi tutti gli orologi d'oro. Adesso perché hai... quando sono venuto solo, una volta c'erano tutti gli orologi d'oro e tutti i gioielli. Sì, ma li ho dovuti dare a Mauro Meazza. Gli ho dovuto dare impegno a Mauro Meazza. Va bene, va bene. Sentiamo cosa ne pensa Costantino, ci chiama da Genova, Genova, dunque Liguria. Sì, buondì. Vabbè, tanto forza Ibra a prescindere. Vabbè, Costantino, allora, io ti abbraccerei anche in tempi di Covid a questo punto. Grazie. Ascolta, io volevo analizzare il 30% che nei centri storici ha votato no. Sì, e questo sì, è un segnale comunque al governo, perché i centri storici con le leggi fatte sullo smart working sono tutti alla canna del gas, e comunque sia un messaggio, perché comunque queste categorie, specialmente la ristorazione, stanno soffrendo. E quindi adesso sono finite le elezioni, recovery fund, MES, qualunque cosa, cioè bisogna mettere mano per risolvere il problema, perché comunque le aziende sono state completamente abbandonate. E comunque sia, il dato è che questo paese è di centrodestra, perché a prescindere da Salvini che non Salvini, io vedo che per esempio nella mia regione qua in Liguria cioè chi si candida per le regionali vuole vincere e va sempre sul carro di quello che ha più possibilità di vincere. Sì. ci sono sempre spostamenti, ma poi dalle politiche tutto ritorna diciamo alle condizioni di partenza. Vabbè, quindi dice c'è un paese di centrodestra. Ma se allora è come la questione di ieri di Salvini, che ha fatto notare che ci sono 15 regioni governate dal centrodestra e 5 del centrosinistra, quando qualche anno fa era il contrario. Certo, giustamente dice De Bortoli, se tu però Salvini auspichi e alzi l'asticella dicendo auspico un 7-0 e attendo con ansia i voti il 21 settembre, perché il presagio o l'auspicio è quello, dopo ti esponi a dire ah, hai perso in Toscana, hai perso in Campania e quindi hai perso in Puglia e quindi hai perso. È il gioco della politica, no Leonardo? Non è che in realtà abbia perso, sicuramente, anzi se uno va a vedere i voti sono anche in crescita, però se tu metti la Toscana come il baluardo da conquistare, perché da lì conquisterai tutta l'Italia, se perdi poi l'avversario ti dice abbiamo vinto noi, no? Comunque io ho nostalgia, sì, di quei tempi in cui le persone votavano per tutta la vita lo stesso partito, per tutta la vita votavi DC, per tutta la vita PC. Adesso ogni due anni siamo fluidi, ci sono siamo diventati fluidi. Di 20% che vanno da una parte all'altra ogni votazione. No, siamo dalle banderuole. Io sono una banderuola quando voto. Sa. Tu lo eri anche prima, solo che prima eri uno dei pochi e quindi non incidevi statisticamente. Sì. Leo Banderuola, non sarei chiamarmi, una volta voto uno, una volta l'altro. Non ci si affeziona più ai partiti. E l'hai detto che l'hai votato tutti più o meno, dai radicali, tutti, verdi. Sì, tutto tutti. L'arco costituzionale, dall'estrema destra all'estrema sinistra. I verdi anch'io una volta nella vita. Chi non ha votato i verdi? Credo a 18 anni, 19 anni. I verdi una volta nella vita, uno dice ti svegli, ti senti un po' green, voti verde. Insomma, e poi dopo vedi, insomma. No, quello che io non ho capito è veramente questa storia della critica sui social, soprattutto su Facebook. Io ho votato sì al referendum, ma perché ho letto, mi sono informato, mi sono formato un'opinione e ho votato sì. Se tu vai su Facebook, praticamente chi ha votato sì, da parte di chi ha votato no, è un becero, ignorante, populista, che ha votato di pancia. Allora io dico, io non credo che... Abbiamo avuto ospite Perotti, economista, oggi Ugo De Siervo, ex presidente della Corte Costituzionale, giurista Zaccaria, Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, la Gualmini, politologa, ma potrei citarne decine e decine per il sì, come ce ne sono stati decine e decine per il no. Non mi sembrano persone quelle del sì, come dire, che ragionano con la pancia, che votano con la pancia. Oggi Ugo De Siervo sul Corriere dice è la critica risibile il fatto che votare sì dava via una riforma spot non inserita in un contesto organico. Risibile, non succederà niente di tragico. Ora bisogna semplicemente fare una legge elettorale e riformare i regolamenti parlamentari. Ma sarà una cosa complicata e che mette a rischio la democrazia di un paese. Ma non fatemi ridere. Un po' la riforma elettorale è sempre complicata in Italia. Fare sì, una riforma elettorale in Italia tutto decente, è complicato. Adesso. Tutto è complicato in Italia. Questo... E allora, siccome tutto è complicato, non si fa nulla. No. E c'era una riforma costituzionale votata dal 96% dei parlamentari in Parlamento, quindi l'hanno voluta tutti. sottoposta al popolo, che non cambi, non mina alcuna democrazia, niente mina. Citano anche Zagrebelsky, sì, ma sono tanti per i sì, sono tanti per i sì. E quindi è ridicola questa accusa di dire avete votato con la pancia, siete degli ignoranti, delle bestie. Oh, ma come vi permettete? Cioè, rispettiamo chi ha votato no e rispettiamo chi ha votato sì. Va bene, anche bene, chi ha votato... Dopo questa tua... sì, mi sono arrabbiato. Sì, mandiamo il traffico. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ecco, di certo, come scrive un ascoltatore, chi ha votato no voleva solo punire i 5 Stelle. Io quando sono andato a votare non me ne fregava niente, l'unica cosa di cui non mi fregava era... andare pro contro 5 Stelle, questi calcoli li lascio veramente, veramente alla pancia del paese. Mi sono informato sulla riforma, l'ho trovata corretta, come il 96% dei parlamentari, ripeto, che l'hanno votata, e ho votato sì. Punto. Poi che il 5 Stelle, mi interessava di più lo stato di forma di Ibrahimovic ieri, di pensare a chi avesse votato questa riforma, chi l'appoggiasse o no. Comunque, caro Leonardo, a te. Allora, dunque, il referendum ha vinto il sì, anche con una percentuale significativa. Un buon numero dei nostri parlamentari, identificati probabilmente come parte della casta, alle prossime elezioni non avrà modo di tornare a occupare gli scranni del Parlamento. Una riduzione importante che probabilmente farà gridare di gioia o almeno mugolare di soddisfazione tutti quelli che vedono in Montecitorio e Palazzo Madama i nidi dove si addensano privilegi d'auto blu e stipendi eccessivi non meritati. Era ora, griderà qualcuno, li abbiamo sforbiciati, urlerà qualcun altro ebbro di soddisfazione e convinto di aver ristabilito una sorta di giustizia divina. Non so perché, ma ho il vago presentimento che invece questa sforbiciata non si risolverà automaticamente in un vantaggio per i cittadini. Infatti, che cosa succederà a tutti quegli uomini e donne di partito che non troveranno più posto in Parlamento? Quanti di loro torneranno alle occupazioni precedenti, ammesso che ne avessero di stabili, e quanti invece cercheranno e troveranno tramite il partito di riferimento un posticino in enti che forse richiedono anche più responsabilità di quella che richiede l'attività dei peones in Parlamento? E allora probabilmente i parlamentari che, causa sforbiciata referendaria, non sarà più ricandidabile o eleggibile, andrà cercando la presidenza di tal consiglio di amministrazione, della tal azienda sanitaria, oppure di quell'ente inutile, che però è utile a piazzare proprio quelli che una volta si definivano i trombati e che ora saranno inevitabilmente di più. E quindi probabilmente vedremo questi parlamentari mancati non solo nei posti più o meno visibili che occupavano prima, li vedremo ovunque, li vedremo presiedere consigli di zona, riunioni condominiali, occupare posti di rilievo nei Boy Scout, nei circoli canottieri, nelle asso macelleria, negli amici del subbuteo, li vedremo comparire negli asili comunali i nostri figli e poi a dirigere mense, circoli sportivi di calcetto, a decidere i menù delle mense aziendali, insomma a insinuarsi in modo ancora più significativo nella nostra vita quotidiana. E allora, cari amici del popolo, che gioite pensando di aver sfoltito i presunti nullafacenti, come la penserete se poi a governare la vostra circoscrizione vi troverete proprio uno di quelli che pensavate di aver eliminato? Certo, direte, però lì guadagnano meno. Ecco, forse la chiave sta tutta lì, nei soldi, i danè. Io credo che in molti, non tutti ovviamente, abbiano votato sì per punire economicamente i presunti parlamentari nullafacenti. Probabilmente la chiave è stata quella, mandiamo a casa quelli là che lavorano poco e guadagnano tanto, troppo. Ma poi troveremo rappresentati, ci troveremo rappresentati lo stesso da quelli che abbiamo voluto tagliare e li troveremo ancora più vicino a noi, alle nostre strade, alle nostre case, alle nostre decisioni quotidiane e a quelle che reggono la vita dei nostri figli, delle nostre vacanze, del nostro tempo libero. Diventeranno presidenti della asso tempo libero, non essendo più parlamentari, e loro arriveranno con una vaga espressione di vendetta sul viso: ah sì, tu mi hai voluto tagliare, io invece grazie alle mie amicizie mi sono fatto ripiazzare proprio qui, vicino a casa tua, per renderti la vita impossibile. Sono curioso di vedere come andrà a finire, come sarà la nuova legge elettorale e se effettivamente il Parlamento funzionerà meglio, sapendo che comunque tutte le favole finiscono sempre col lieto fine, ma non si sa mai quello che succede veramente dopo il "e vissero tutti felici e contenti", anche perché secondo me alla fine Cenerentola ha divorziato. Eccola, eccola. Ma guarda, hai ragione Leonardo, anche un ascoltatore mi ha detto: guardi, lei, Milan, avrà votato con queste argomentazioni, ma tutti i miei amici che hanno votato sì lo hanno fatto con, come dici tu, per dire ma andiamo a casa quelli là, chi se ne frega, cioè nel senso, io parlo per me, io ho maturato un voto e un'idea per me, avendo letto, cioè, io non ho votato così. Cosa devo fare? Devo ragionare anche per gli altri. Io ragiono. No, io ti ho detto me. Che quelli. Ma tu hai votato chi? Molti... Per, sì o no? Perché non lo vuoi dire? Tu hai votato. Beh, io ho votato no. Io ho votato no. Oh, e dillo, abbi il coraggio. Sei, hai perso. Mi pareva che hai perso. Sì, abbastanza. Ho perso. Hai perso. Hai perso. Ma io voglio dire a quelli che hanno votato sì pensando di ecco, perdente. Li abbiamo scorbiciati, li abbiamo puniti, perdente. Poi quelli ve li ritroverete in tutte adotta le associazioni, un parlamentare, in tutti, come dice quello tutti di gli altri ruoli, ve li ritroverete, perdente. In tutti gli altri ruoli, anche vicino a casa vostra, anche pagati più prima. Questo perdente. Francesco dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno, sì. Volevo dire che il Veneto intanto gioisce del risultato e penso che Zaia non ci sarà mai contro Salvini a livello nazionale. Però la strategia, io vorrei dire, sarebbe quella di Renzi di rientrare nel Partito Democratico, sì. E dare l'assalto alla segreteria. Perché Renzi, cioè, lei pensa che... Bah. Sì, qualcuno lo sta dicendo, ma secondo lei lo accetterebbero nel PD? Aspetti però, perché ho finito, devo andare al giornale radio, magari lo riprendiamo dopo. Qualcuno lo dice, Renzi dovrebbe, si è reso conto, forse rendendosi conto che va al 3, 4, 5% di rientrare nel PD, scalare la segreteria, insomma, Zingaretti stia sereno, ma chissà se glielo concederanno come mossa politica, ho dei dubbi. In ogni caso, vabbè, dobbiamo fermarci. Nella seconda ora non solo di politica, parleremo soprattutto di questa vicenda terribile di cronaca che avviene in provincia di Torino con questo genitore che ha ucciso il figlio di 11 anni per poi uccidersi a sua volta. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, 18 minuti, caro Leonardo Manera, iniziamo la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Mi scrive un ascoltatore, Roberto, dice: Milan, è importante tutto quello che fai e che dici, però se sei sensibile alla natura, parla del fatto che in Tasmania si sono spiaggiate 270 balene. Non credi che ci sia anche il dovere di parlare di questo? Ho sentito che Cristina Carpinelli ne ha parlato lungamente nel giornale radio, insomma, non è che, caro Roberto, si può parlare di tutto, facciamo delle scelte, però la programmazione di Radio 24 è ampia, e quindi ne parliamo. Ma all'interno. Ma tu vuoi parlare radio. Solo di politica normalmente, no, qual è l'argomento che preferisci, perché vuoi essere proprio vicino al potere? Di politica, come ben sai, potessi non ne parlerei mai, e sono ben felice adesso di avere una trasmissione non di prima ora del mattino per sei drogato di politica. Non intervistare ministri, eccetera, per non intervistare politici che raramente danno delle risposte concrete. Comunque, siamo qui, adesso dobbiamo parlare di questa vicenda di cronaca terribile avvenuta in provincia di Torino, di questo genitore che al culmine evidentemente di una esasperazione, dopo aver lasciato un messaggio su Facebook, peraltro, in cui preannunciava tra le righe quello che stava per fare, ha ucciso il proprio figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita. Quando racconta nei giornali, ha scritto queste righe su Facebook e una sua amica, evidentemente follower, ha letto queste righe, ha subito avvertito le forze dell'ordine che sono arrivate nella casa dove però il fatto era già stato compiuto. Io saluto Gianna Schelotto, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, ben ritrovati anche a voi. Come sta? Ci sentiamo ogni tanto, purtroppo per cose non belle, ma insomma sì, ci deve aiutare a capire qualcosa di più, perché tutti possiamo fermarci alla superficie e dire evidentemente era depresso, era esasperato, voleva fare un gesto anche di estremo odio, immagino, di vendetta sì, nei confronti della compagna, cioè della mamma, dicendo a questo punto allora lo porto via con me. Però che cosa possiamo dire di un po' più profondo rispetto a questo? Ma possiamo dire che cioè in questo suo messaggio, a parte il fatto che il messaggio non lo scrive alla sua compagna, ma lo manda via social, è come se attaccasse i manifesti della sua vendetta su tutti i muri della città. Ma possiamo dire che quest'uomo aveva smarrito da tempo evidentemente i confini della realtà, nel senso che quando lui dice: esattamente una settimana prima che mi ammalassi di mal di schiena mi avevi detto che volevi sposarmi e poi mi hai lasciato. E qui evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato nella percezione della realtà, nella percezione del distacco della moglie. Cioè quest'uomo si era così tanto smarrito che non riusciva nemmeno a interrogarsi sui motivi dell'improvvisa freddezza della moglie e ha trovato come alibi la malattia della schiena. Se partiamo da questo punto di vista, evidentemente tutto perde, come dire, i contorni giusti. E in questo anno e mezzo evidentemente lui si è caricato di un odio e di un bisogno di vendetta che richiama la tragedia greca, cioè richiama Medea. Non so bene a chi pensare. Sta di fatto che il passaggio più agghiacciante di questo messaggio è: ti auguro di vivere 100 anni. È come se lui la inchiodasse a questo. Sì. Ricorda la vicenda recente che c'è stata della doppia uccisione dei gemellini, dei due bambini, dei gemellini in provincia di Lecco. Ecco. Solo che lì la piccola differenza stava nel fatto che lui, se non ricordo male, la lettera l'aveva scritta la moglie. Sì, sì, sì. Qui invece è stata un'esibizione pubblica, ecco, perché pubblica, Facebook. Sì, violenta, veramente raggelante. Sembrava che questo padre fosse molto legato al figlio, dicevano che facevano tutto insieme. Come si può arrivare a uccidere il figlio nonostante ci sia questo legame così intenso che a quanto pare c'era? Era talmente legato, c'era una tale simbiosi, aveva creato lui una tale simbiosi appunto che non teneva conto della realtà e a un certo punto si è identificato col figlio. Siamo una cosa sola e ce ne andiamo via insieme, così insieme puniamo la mamma. Cioè c'era, ormai il figlio era diventato sua proprietà esclusiva e poteva farne come di se stesso quello che voleva. Sì, c'è da dire che sono scene raccapriccianti effettivamente, condannare un po' al dolore a chi rimane, al dolore eterno. Dolore eterno, esatto. L'abbiamo detto. Esatto. L'abbiamo detto anche l'altra volta. Effettivamente questa esibizione pubblica su Facebook è un qualcosa a cui non avevo pensato in maniera così... è così intensa, cioè il volere inchiodarla sì, anche però comunicarlo al di tutti, alle persone, esatto, comunicarlo a tutti, fare in modo che, perché certo, lei non fosse più libera, che ne so, di uscire per la strada, di tutti gli estranei, gli sconosciuti vedendola pensano quella donna è stata la causa della morte di suo figlio. Sì, dopodiché ho letto che era in cura per una depressione, psicologi, qualcuno dice anche psichiatra privato, per carità, non è che i professionisti possono, lei lo è per esempio, non è che sempre possono intercettare i segnali, però forse ci sono dei modi per capire che qualcuno purtroppo queste cose poi vengono fuori sempre dopo. Qui c'era, come dire, c'era questo alibi, diciamo così, della forte depressione. E la depressione nascondeva, secondo me, un passo in più, cioè proprio il passaggio nel delirio. Era un delirio, quest'uomo era convinto di essere vittima di questa moglie cattiva. E qui la depressione fa un passo avanti, cioè sprofonda ancora di più, perché appunto si perde completamente il rapporto con la realtà. Sì. Si è incapaci di... cioè, quest'uomo da quello che scrive non si è mai messo in discussione sui motivi veri per i quali questa unione era, si era esaurita. Sì. Allora, lei ha parlato di tragedia di Medea. Guardi, neanche a fare la posta. Andiamo alle informazioni sul traffico, poi ci raggiunge un ospite che forse ci potrà dire qualcosa davvero di profondo per collocare questa vicenda anche nella storia, a partire dall'antichità. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10 e 16 minuti insieme a Gianna Schelotto, psicologa. Vogliamo salutare, la ringraziamo molto, una storica dell'antichità, Eva Cantarella. Professoressa, buongiorno e grazie buongiorno. Di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ha sentito Gianna Schelotto citare la tragedia di Medea, no? Medea che uccide i figli per non lasciare al marito Giasone la discendenza, pur straziata nel cuore, no? E questo è il mito, la tragedia di Medea. Ci può aiutare? Lei che ha scritto anche un paio d'anni fa il libro Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, ci può aiutare a inquadrare? Non era un ricettario. Non era un ricettario, ovviamente, ma un'analisi storica come... Sì. Lei sa fare, ci aiuta a inserire nel contesto storico questi fatti che avvengono da sempre. Non è un discorso facile. Io partirei proprio da Medea, perché vorrei dire qualche parola, non diciamo in difesa di Medea, ma vedo una differenza abbastanza forte tra Medea, tra il comportamento di Medea e quello di quest'uomo. Certo, Medea è mossa anche lei dall'odio verso il suo partner, bisogna dire che nella specie qui l'odio è immaginario, è nato da questa situazione che è stata così ben descritta da Gianna Schelotto nella mente dell'uccisore. Medea era più che giustificata, perché non posso stare a raccontare le cose terribili che aveva fatto Giasone, ma insomma Giasone era vivo grazie a Medea. E la vedeva, non lo so raccontare la storia, lo sappiamo tutti, no? Se la porta dietro, lei deve lasciare la patria, vive straniera in un paese dove non è accolta. Allora, vive in un paese nel quale lei è una straniera, è una profuga, e le caricano addosso quelli che la ricevono. Tutta quello che ancora oggi c'è, la diffidenza per lo straniero, l'attribuzione a quello che arriva da fuori, al diverso di crimini. Quindi è rifiutata da tutti in quel paese, e a un certo punto la rifiuta anche Giasone, semplicemente per ambizione, perché sposa la figlia del re. Certo. Quindi la Medea è, non voglio dire che è giustificata, ha delle ragioni di odio, giusto, se vogliamo giusto o ingiusto non importa, di odio verso Giasone, ma c'è qualcosa in più nell'uccisione dei figli, perché per Medea uccidere i figli significa certo toglierli al padre per sempre, ma significa anche metterli al sicuro dalla condizione tremenda che avrebbero in quanto figli appunto della straniera profuga. Questa è un'interpretazione un po' recente, fatta soprattutto in America di Medea, sì. Ma io penso sia giusta. Quasi una sorta di follia protettiva. Sì, ma dovuta al fatto che il parallelo col presente è interessante, no? Perché come sempre i miti greci poi ci riportano, sono fuori del tempo e ci riportano alla realtà di qualunque momento e qualunque posto. È la diffidenza e la conseguenza della diffidenza e dell'attribuzione agli stranieri di tutte le caratteristiche negative che portano Medea, lei sa che il giorno che lei è, dove andranno, lei lo dice, dove andranno i miei figli, che futuro avranno? È anche un modo, diciamo, per proteggere in qualche modo i suoi figli da un futuro che ritiene quasi peggiore della morte. Accidenti, certo che il rapporto genitori-figli che poi arriva a gesti così estremi c'è, lei lo insegna proprio da sempre nella storia, cioè non è che le famiglie di un tempo fossero le famiglie da mulino bianco, ecco. No, le famiglie sono sempre state, e soprattutto in particolare i rapporti padri-figli sono stati particolarmente complessi fin dal mito. Il mito è pieno di figli che virano il mito greco, no? Che uccidono i padri, che li castrano. E nella storia il parricidio era uno dei crimini più diffusi a Roma. Perché? Perché il conflitto fondamentalmente era dovuto alla dico le cose molto schematicamente, sì, dico le cose solo. Un problema economico. A Roma il pater familias, i figli erano sottoposti al pater familias per tutta la vita del padre. No, cioè non è che a 18 anni diventavano maggiorenni, e fino a quando il padre non moriva non avevano un patrimonio loro, dipendevano dal padre che gli concedeva delle, il famoso peculietto, si dice ancora, un piccolo peculio era quello, ma poteva ritirarlo. Questo faceva sì che questi figli, che alla maggiore età potevano votare, diventavano consoli, potevano essere importantissimi pubblicamente, dipendevano da un padre al quale dovevano i soldi, dovevano chiedere i soldi, certo, che poteva decidere persino di interrompere il loro matrimonio, insomma una situazione insostenibile che crea questo problema, quello che Paul Veyne ha chiamato, sì, la nevrosi. Ecco, qui siamo allora, però, le condizioni diciamo, sono completamente diverse, ma è per dire che in qualunque il rapporto padre-figlio, in qualunque società, qui ci vuole la psicologa, io non dico niente, sì, ma è certamente per ragioni diverse è sempre stato difficile, sì, e complesso. La cosa che mi colpisce, sì, un pochino, dico una stupidaggine, sì, forse, ma è che anche oggi in qualche modo i figli dipendono economicamente dal padre, la situazione giuridica è cambiata, ma i ragazzi diventano grandi e non trovano lavoro e non se ne vanno di casa perché non hanno il modo di andarsene, e quindi conflitto. Dipendono, sì, lei dice dipendono, magari loro malgrado non c'è la legge del pater familias, però dipendono comunque dal padre. Leonardo voleva farle una domanda. Dicevo che però arrivare a uccidere un figlio vuol dire, oltre a essere un fatto gravissimo, ma vuol dire non riconoscere il figlio come titolare di una soggettività. Assolutamente. Però io aggiungo a questo, non so se Gianna Scrotto ci può aiutare, che le parole anche di questo post del padre al figlio sono parole di affetto, di amore, sempre insieme, sempre vicini, un po' con quell'aura protettiva, se mi permettete il paragone, a cui faceva riferimento Eva Cantarella per la tragedia di Medea, no? Cioè comunque sarai sempre con me. Sì, e che si può tradurre come sarai sempre mio. Sì. Cioè, è questo, sì, punto, quello che diceva Leonardo, di riconoscere ai figli una propria soggettività, e spesso nei suicidi omicidi ricorre il fatto che portano via il figlio per sottrarlo a questo mondo cattivo, e in questo caso lui lo porta via per sottrarlo alla moglie cattiva, ma lo porta via anche perché lo identifica con se stesso. Sì. Quindi lo protegge in c'è qualche un senso modo, di possesso, lo... un senso di possesso. Esattamente. Eva Cantarella, lei ha spiegato bene nei libri il parricidio. Qui però siamo, come dire, se vuole, a parti invertite, cioè il figlicidio, ecco, se mi permette questo utilizzo linguistico e lessicale. Nella storia, cioè padri o madri che uccidono i propri figli. Ecco, quello che mi veniva in mente ascoltando Gianna Scherotto è questo. Quello che mi colpisce è che oggi nella storia, tutto sommato, quello la regola, diciamo, ecco, chi uccide i figli è il padre. Oggi, non solamente in questo caso, ma leggendo un po' la cronaca, no, lo sentiamo, lo vediamo, oggi prevalentemente, cioè, nella storia abbiamo Medea, adesso è Medea che uccide i figli, no? È una donna, ma nella storia se no sono quasi sempre uomini. Adesso sono prevalentemente donne, questa è la cosa che mi colpisce, e che io penso è una conseguenza di un fatto che ci portiamo dietro da millenni, cioè il fatto che gli uomini arrivano a questo punto tremendo di obliterazione, perché hanno perso qualche cosa che per millenni hanno avuto, cioè il fatto la donna è la loro proprietà. Cioè ci portiamo dietro ancora una concezione proprietaria del rapporto fra i sessi che mi pare si possa vedere un pochino anche in queste situazioni. Non si tollera di perdere la donna, e si arriva al punto di uccidere i figli per in odio alla donna, perché è l'unico bene che è rimasto, è sempre stato il grande bene dell'uomo, dei maschi che non ce l'hanno più. Insomma, fortunatamente non ce l'hanno, sì, più. Sì, sì, su questo non c'è dubbio. Però dice invece il fatto che cioè la tragedia di Medea vista oggi, cioè la donna che uccide, sì, il proprio figlio, come la reinterpreta lei? che la, nella tragedia di Medea appunto è la mamma che invece... Qua ci vuole la psicologa, non ci voglio io, non sono in grado di dire direi sciocchezze come probabilmente ho già detto in qualche modo. Ma no, assolutamente no. La psicologia, ogni assolutamente volta no. Gianna Schelotto. No, ma è molto giusta, molto profonda l'osservazione della signora Cantarella, cioè gli uomini che perdono potere. E l'unico potere che gli rimane è quello appunto dei figli, che almeno è un potere condiviso, però sta di fatto che c'è la differenza. Mi pare che in questi delitti ci sia una sorta di cambiamento, cioè quelli del femminicidio, quelli che uccidono le donne, lo fanno, adesso stiamo generalizzando alla grande, lo fanno perché vogliono bloccare la vita della moglie. Qui c'è una cosa di più raffinato, di più crudele, cioè la bloccano ugualmente la vita della donna, ma si portano via i figli. Sì. E quindi per certi versi diventano, riaffermano il loro potere. E invece quando accade il contrario, cioè quando è la mamma che sopprime il figlio, qui c'è un discorso forse anche più profondo, voglio dire, perché certo, chi l'ha messo al mondo, no? Esattamente, la protettività di cui parlavamo prima qui è moltiplicata per mille, cioè è la mamma che è protettiva, che è chioccia, è lei che se l'è cresciuto nel ventre e poi lo ha partorito. Quindi l'idea del possesso, del dovere di proteggerli dal mondo cattivo diventa ancora più forte. Io vi ringrazio. Però come si può fare adesso? Cioè, queste cose succedono purtroppo, ma qual è la strada per cercare di... intercettarle, esatto, intercettarle. Schelotto. Purtroppo non c'è una strada sicura, ecco, perché appunto in questo caso quest'uomo era seguito, aveva dei medici, penso che si occupassero di lui, però anche qui appunto è stata la depressione che è diventata per certi versi fuorviante e non ha illuminato il delirio, cioè lo smarrimento totale del rapporto con la realtà. Però appunto sono storie piene del senno di poi. Eh sì. Noi vi ringraziamo Gianna Schelotto, grazie per essere stata con noi e ci ritroviamo presto. La professoressa Eva Cantarella, io ricordo il libro, quello di Feltrinelli, Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, è quello secondo me che più si addice al tema, insomma anche più attuale. Io personalmente sto leggendo adesso I supplizi capitali, cioè origine e funzione della pena di morte in Grecia e Roma, così, ma glielo dico solo personalmente perché ci tenevo in faceva molto piacere. Grazie professoressa Eva Cantarella. Grazie per essere stata qui con noi e Leonardo, insomma, abbiamo parlato di questo tema estremamente terribile, però io credo con due persone che ci potevano dare, ci hanno dato anche degli spunti un po' più profondi al di là della fredda cronaca che è brutale. Uno, io ti giuro, apro i giornali, vedo le foto di questo padre con questo bambino di 11 anni sorridenti e... Sì, a me ha fatto molta impressione perché anch'io cerco di fare tante cose con mio figlio, no? E ho letto che lui faceva un po' di tutto, sì, sì. E mi ha colpito molto perché dico: ma come si può arrivare con un bambino alla fine, col quale condividi una parte di vita, a sopprimerlo? Perché evidentemente alla base ci sono gravi problemi, sì, psichiatrici, insomma. Allora, andiamo a sentire le informazioni della borsa e poi rientriamo, state con noi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Sono uno di quelli che ha votato sì pur avendo un disprezzo viscerale per i 5 Stelle, pur non essendo populista e pur fottendomene del presunto risparmio che deriverebbe dal taglio dei parlamentari. Milan, ma davvero sei convinto che non sia stato un voto di pancia? Perché tu non hai votato di pancia, allora tutti quelli che hanno votato sì non hanno votato di pancia. Svegliati, non fa l'autoreferenziale. È un voto di pancia, punto e basta, e ha vinto il sì perché la classe politica ha fatto arrivare la pancia a votare. Non bisogna trovare scuse o altro. La pancia ha votato questo giro, quella gente è stanca degli ultimi 50 anni di politica. No, io devo dire all'ascoltatore di prima, certo che io so che sicuramente avrà la maggior parte di coloro che hanno votato sì hanno votato di pancia, ma io che ho un voto a disposizione devo votare per quello che penso io o dovrei votare secondo l'ascoltatore? No, perché siccome pur essendo io per il sì, ma non essendo motivato dalla pancia ma da un ragionamento, non posso votare sì come la maggioranza degli italiani, perché sennò sono considerato come uno che ha votato di pancia, quindi dovrei votare no. Cioè, questo è il ragionamento dell'ascoltatore. Io ho votato sì perché mi sono informato e mi sono fatto un'idea. Che cosa me ne frega di che cosa ha spinto il mio vicino di casa ad andare a votare o sì, sì o sì. No? Cioè, io posso esprimere il mio voto per quello che penso io. Punto. No? Leo, aiutami. Votare di pancia. Pur a parte che tenere la matita con l'ombelico non è facile per chi ha votato di pancia. Però, a parte quello, è innegabile che la maggior parte delle persone hanno votato sì perché ha pensato mandiamoli a casa, sono pagati troppo, eccetera, eccetera. Però la cosa che mi stupisce è che se il voto fosse stato sempre di pancia negli ultimi anni, sarebbe passato anche l'altro referendum, quello di Renzi, per l'eliminazione del bicameralismo perfetto. Ma lì si votò per mandare a casa Renzi, contro Renzi, certo. Quindi vuol dire che Renzi risulta più antipatico della pancia, dei 5 Stelle. Della pancia. Non diciamo ho capito così. Più niente. Quindi Renzi non ha la pancia. No, Renzi, sto più capendo niente. Che anche allora sarebbe stato sensato abolire il bicameralismo perfetto. Invece probabilmente lì è stato proprio un voto contro Renzi. Si è verificato. Scusa, senti questo messaggio. Lo capiranno i milanesi e lo capirai tu. Magari tutti gli altri in Italia dobbiamo spiegare. Allora, stamattina, scrive un ascoltatore, sono sceso lungo il fiume Palmanova e giunto presso il lago Casoretto, sono strade di Milano che oggi si sono trasformate in fiumi e laghi, sono rimasto sulle due sponde per circa 20 minuti senza poter avanzare. Mi è sembrato anche di intravedere Caronte che traghettava i poveri automobilisti verso la sponda Porpora, un'altra via. Comunque, dice, conclude l'ascoltatore, Luca domani lascia la colazione pagata al bar Jimmy. Ma non ho capito, cioè lascia come imperativo, cioè Manera la deve lasciare o Luca lascia a me? No, scusa. Hai visto che questo l'hai, signore questo mi giustifica nella mia impossibilità. Sì, no. Cioè, Luca ha detto conferma, domani lascia la colazione che... pagata al bar Jimmy. Io lo interpreto, caro Leonardo, domani lascia a Luca la colazione pagata. Comunque questo signore che io ringrazio, siccome quelle sono le vie che avrei dovuto fare anch'io, conferma che per me era impossibile oggi raggiungere la radio in automobile. Sì. Quindi io ero uscito ligio al mio dovere, per questo meriterei anche un aumento, ma a causa di queste strade allagate non ho potuto farlo. Allora, ci ha chiamato un collega della Sentinella del Canavese, giusto? Mauro Giubellini, della provincia di Torino. Mauro, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Bene, eccoci. No, dunque, io ho sentito riguardo a questa tragedia che si è consumata sul nostro territorio degli interventi raffinati, eccezionali e molto centrati, però forse è sfuggito l'elemento centrale che era quello di una coppia in separazione, perché questo era, dove l'unica cosa in comune che avevano questi due genitori era rimasto il figlio. E per accaparrarsene come spesso succede nelle separazioni, l'unica cosa in comune, nel senso che le separazioni un po' traumatiche, come dire, no? Esattamente. Però raccogliendo sul territorio quindi i racconti del parroco, dei compagni di lavoro, del padre, degli amici, di alcuni parenti, mi è venuto fuori un quadro dove giustificare questo genitore sino in fondo è un po' difficile, ma nessuno, è veramente un po' difficile. Ma nessuno infatti lo giustifica, ma anche perché nessuno lo giustifica. Poi Mauro, ci sono milioni di separazioni molto traumatiche in Italia, cioè dove si litiga dalla mattina alla sera, ma fortunatamente nessuno o pochissimi o i casi del genere sono sono estremi, nel senso, no, no, ma comunque non c'è stata nessun tipo di giustificazione, guarda, per carità. Io in questo momento vi sto telefonando dalla procura, sì, e vi posso dire che c'è anche una pista investigativa, sì, che lavora in maniera molto concreta sulla premeditazione a lungo termine di questa finale tragico, sì, traumatico, sì, che ma lei infatti comunque, quando si è detto non c'erano elementi per intercettarlo, intendo a livello psichiatrico, a livello psicologico, da chi fosse. Allora vi confermo innanzitutto che quello che hanno scritto oggi tutti i quotidiani corrisponde, e che avete anche detto in trasmissione, corrisponde alla verità. Questa persona, Claudio Baima Poma, era comunque da tempo seguito. Aveva una componente molto narcisistica nel suo carattere, e lo si evince anche dal tipo di foto che postava e quant'altro. Detto questo, c'è il recupero di un'arma da fuoco con la matricola brasa, i due soli colpi, quindi non è stata una cosa istintiva, c'è una premeditazione. E questo, ecco. sì, questo. Va bene, Mauro, no, ma grazie per queste delucidazioni. No, tornando alla questione, precisiamo che, per carità, nessuno ha giustificato assolutamente il gesto. E con Gianna Schelotto e Eva Cantarella abbiamo avuto un approccio psicologico e storico per cercare di capire. Ovviamente non è che loro o anche noi, io e Leonardo Manera, conosciamo i dettagli come il collega. Si partiva da quel fatto per cercare di dare un'analisi un po' più generale. Sì, come anche mi hanno scritto alcune persone dicendo che c'era invece la sensazione di voler colpevolizzare così tout court i padri. Non è così, perché no. Poi in generale ci sono veramente migliaia di separazioni anche traumatiche dove i padri continuano a fare i padri, appunto, sì, in modo responsabile. Esatto. Cioè, la stragrande maggioranza, fortunatamente, di separazioni, anche se si litiga, non portano a nessun gesto di questo genere. Queste sono, come dire, delle rarità che purtroppo quando accadono fanno appunto notizie. Andrea ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Andrea. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Allora, volevo intervenire sul discorso sì-no. Diciamo che con la testa si vota sì, con la pancia si vota no. Il contrario di quello che dicono, perché siamo in Italia. Addirittura, attenzione, Andrea addirittura sovverte. Chi ha votato con la pancia ha votato no. Beh, questa è stupenda. Questa, allora, questa non ci arrivo pancia, perfino io. Allora, il discorso è questo. Sì. Bisognava dare un segno di cambiamento, e quindi il sì, sapendo che comunque non basta questo, era il voto giusto, e sì, così ho votato anch'io. In realtà, se vivessi in un paese civile, buttiamola lì, il solito paese che si prende in considerazione la Svezia, avrei votato no, perché avere più rappresentanti sicuramente per i cittadini è meglio. Lo stesso discorso valeva per il referendum Renzi, c'era l'abolizione del bicameralismo perfetto, e quindi sarebbe stata una cosa utile. Però sapendo come vanno le cose in Italia, lo stesso discorso vale per il reddito di cittadinanza. In un paese normale andrebbe a finire solo dove deve andare a finire, quindi è giusto che ci sia, siamo in Italia e va a finire dove abbiamo sentito. Insomma, e anche per esempio per il discorso del vitalizio, quando i padri fondatori istituirono il discorso del vitalizio, secondo me era una grossissima conquista sociale, perché permetteva anche a un povero operaio di non porsi il problema: ma cosa farò quando non sarò più magari in politica, non verrò più eletto, ho una garanzia. Così invece in Italia, anche qua, abbiamo visto dove come sono cosa finite le cose. Va bene, però va bene. Era sicuramente questa una cosa la lettura, la lettura di Andrea dalla provincia di Varese, che ringraziamo. Ma tra poco avremo la lettura delle sardine, perché dopo il traffico ci raggiunge il nostro mitico rappresentante delle sardine, Elenio Mariotti. Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, ragazzi, ma prima della sardina, Leonardo, Sai che è riuscita questa notizia? Sai che Luis Suarez, il giocatore, ha fatto l'esame di italiano, è arrivato a Perugia, ha fatto il 448 in mezz'ora l'esame di italiano, sposato con un'italiana, calciatore Suarez, e quindi ha ottenuto la doppio passaporto. Sai che c'è questa notizia fino a ieri? La Guardia di Finanza è andata alla Procura di Perugia per dire la cittadinanza italiana è stata ottenuta con una truffa. Cioè, secondo la Guardia di Finanza era tutto già preordinato, sia l'esame, le domande concordate, i punteggi assegnati ancora prima dello svolgimento della prova. Va bene, e tu cosa ne pensi? Secondo te è plausibile questa cosa? Non mi posso permettere che poi dopo partono le querele. Diciamo che uno che arriva, fa l'esame in mezz'ora e diventa italiano, quando la prova, leggevo, doveva durare 2 ore, è stato mezz'ora all'Ateneo di Perugia, diciamo che qualche sospetto è venuto a me e alla Guardia di Finanza, solo che la Guardia di Finanza... Sei tu che l'hai mandata, hai mandato tu la Guardia di Finanza. Milanista hai detto andate a controllare che il signor Suarez faccia una prova corretta. Adesso spostati, Leo. Ma poi hai visto che la Juve invece ha ripreso Morata, ha ripreso morale anche dopo la vittoria, va bene. Spostati! E lascia spazio alla sardina che oggi è il giorno della è politica. È brutto che tu mandi la Guardia di Finanza perché signor tiene una squadra Elenio di... Mariotti sardina, buongiorno, come sta? Eccoci qua, buongiorno. Dire grazie è la prima cosa che posso fare. Grazie perché se c'è una cosa che ama le sardine è l'educazione, lei lo sa. Per esempio, noi bussiamo sempre prima di aprire una porta, anche se è la porta di casa nostra. Ah. E abbiamo le chiavi. Sì. Cioè facciamo toc toc, permesso, avanti, disturbo, e noi stessi diciamo no, prego. E poi noi, essendo educati, non fissiamo nessuno, neanche se la bocca sporca di maionese, e diamo sempre la precedenza a chi è più anziano di noi, anche quando giochiamo a carte. Mm. Infatti il problema di essere educati troppo è che non tocca mai a te, però per noi è il valore principale l'educazione. Ecco. Quindi la ringrazio per questo invito educato che mi ha rivolto a essere presente oggi in trasmissione. E quando bussate è l'unica volta che date delle risposte chiare, peraltro. Prego. Si accomodi. Questa è una sua interpretazione, neanche troppo gentile. Scusi, comunque l'accetto perché noi accettiamo tutto. Effettivamente questa è stata un po' maleducata, poco educata. Un'ironia non richiesta, anche molto piacevole. Ecco, Elenio, io questa domanda gliela faccio tutte le volte, ma non perché sono rimbambito io, ma perché mi sembra che non abbia risposto mai benissimo. Ci vuole spiegare chi sono esattamente le sardine? Cioè, capito? Se dovessi dare una definizione delle sardine, direi che noi siamo persone. Persone con un cuore, una testa, delle mani, dei piedi, delle ginocchia, dei gomiti che servono per starnutirci dentro, perché siamo educati. Ma adesso è arrivato il momento di esporci. Vogliamo esporci oggi. Mm-hmm. Ecco, oggi mi voglio esporre. Ecco. Cioè, come sardine dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero. Ecco. Questo è un passo importante. Hai capito, no? Sì. Cioè, perché a un certo punto... Diciamo anche facendo dei comizi bisogna esporsi. Oggi voglio ribadire la nostra esposizione, cioè in cosa crediamo. Sì. Capito? Va bene. Sì. Cioè crediamo in cosa? Cosa? Crediamo nella dolcezza. Perché la dolcezza è educata, l'amarezza non è educata. Se c'è la dolcezza puoi fare tante cose. Per esempio allenarti nel solfeggio, 1, 2, 3, 4. Spiumacciare un cuscino. Staccare un pezzo di carta igienica, ma senza andare oltre i 2 strappi, hai capito? Ma perché? Perché se c'è la dolcezza non serve arrotolarsi tutta la carta intorno alla mano prima di usarla. 2 strappi al massimo bastano. Ah, ecco. Ho un po' alzato i toni, ma... No, ma allora no. Che qualcuno si prenda la responsabilità di dire le cose come stanno. E noi ci stiamo schierando in modo netto. A proposito, netto. A proposito, evidente, sì? Sul referendum, vi siete schierati per il no, fin dall'inizio, no? Il no. Ma no, perché oltre al referendum ci sono state anche tante cose in questo periodo, no? Invece si è parlato solo del referendum, ci sono tante altre cose, per esempio la vendemmia di questo periodo, una pizzata con gli amici delle medie, si è anche rotto una tubatura a casa di mio cugino, sì, e poco dopo gli si è rotta anche la lavatrice, il microonde, il forno, il bollitore. Le cose si rompono sempre tutte insieme, però voglio dire due cose con chiarezza. La prima è che insieme all'antibiotico è sempre meglio prendere anche dei fermenti lattici. Ma cosa significa? Chi se ne frega? La seconda è che noi come sardine vogliamo cominciare ad affrontare davvero i nostri avversari politici. E quindi lancio ufficialmente la sfida al gioco delle capitali. Svezia, Stoccolma. Filippine, Manila. Manila, sì. Madagascar, Antananarivo. Antananarivo. Le so tutte. Questo lo so perché ho visto il cartone di Madagascar. Le cioè, so più o meno tutte. Se vuole, no, non le so più o meno tutte, però se vuole, facciamo questa sfida. Repubblica Ceca. E quindi noi vogliamo lanciare questa sfida agli altri movimenti partendo da questo. Adesso Antananarivo. Facile. Francia. Francia. Adesso non è che possiamo dirle tutte. No, cioè, vabbè, tutte no, però Francia, Spagna, Spagna. Vabbè. Cioè, lei vuole mettermi in difficoltà. No, no, va, no, no. Allora guardi, ho un'ultima domanda, che abbiamo un minuto. Non sono cose che tutti noi siamo tenuti allora, a sapere. Visto che siete tornati alle feste dell'unità. Capitata a Madagascar e Antananarivo. Volete dare una mano alla sinistra? Mi faccia fare quest'ultima domanda. Date una mano alla sinistra? Cioè, prima volevo ribadire che la capitale del Madagascar è Antananarivo. Sì, questo. Poi, cioè, la sinistra. Noi dobbiamo smettere di ripetere gli errori delle generazioni passate, tipo scongelare le cose senza poi mangiarle subito. Non si possono ricongelare. Cioè, non puoi rompere la catena del freddo, capito? Perché le sardine ci sono pronte a far scelte coraggiose, tipo mettere le scarpe da ginnastica senza i fantasmini. Ecco, sono stato un po' diretto, ma molto. Siamo stufi di questi leader politici che non si espongono. I chi? Perché i leader politici che non si espongono. Leader. I leader che non si espongono sono la cosa che manca di più a questo paese dopo il Festival Bar. Mi manderà. Cioè, credo di aver risposto in maniera a tutte chiara le sue domande. Come sempre. È sempre una questione di educazione e di saper interpretare le parole. Come cioè, sempre, con grande educazione. Diretto, sì. Un linguaggio troppo diretto e maleducato. Maleducato. Vabbè. Ci venga a trovare ancora Elenio Mariotti. Come sente, c'è la sigla e dobbiamo chiudere e sentirci domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.